Can you see it, my brother? Can you see the new? Beh, i magazine iniziano un pochettino in ritardo, del resto abbiamo dato molto spazio giustamente a un last minute tra un importante palcoscenico bolognese, il Celebrazioni a livello ovviamente nazionale, e la sorpresa al Paradiso Jazz questa sera col protagonista, la chitarra Kurt Rosenwinkel. Ma iniziamo con intanto una precisazione, ha a che fare con l'estate, è un po' vago per avere il saggio contesto teatrale di Stefano Massini, non vi dico il titolo perché potrebbe aiutarvi un po', già è facile di per sé, quindi la prendo alla lontana. Io sono bravissimo tra l'altro a essere logorroico, prolisso e quant'altro, per cui ha a che fare con l'estate, con l'abbigliamento estivo, ecco il prossimo indizio. Ovviamente dopo le segnalazioni, nonostante come affermo sempre, io evito l'informazione in rete, chiaramente dopo una tale segnalazione, nonostante i miei mezzi estremamente limitati, ho cercato qualche notizia già a disposizione su questa scossa di terremoto a Marradi di una certa consistenza, come epicentro la cittadina in provincia di Firenze sull'Appennino tosco-emiliano ha portato lievi danni e nessun ferito dai primi rilevamenti. Si sta monitorando la zona, la scossa è stata percepita fino ad Imola, per cui è ovviamente in tutto il Mugello, anche la provincia di Forlì Cesena è stata coinvolta, Modigliana e Tredozio hanno avuto purtroppo anch'esse la paura di una sveglia improvvisa da questo sisma. In rete, i nostri magazine iniziano però a riguardo della rete con un neolinguaggio, così viene definito dal Corsair, dalla lettura, pagina 14, con questo termine che per me porta all'analfabetismo funzionale. Poi ci meravigliamo che in Italia il livello di analfabetismo funzionale è veramente elevato. Se torniamo indietro e usiamo i geroglifici invece che la scrittura, è molto facile che si abbia questo fenomeno negativo. Sono i meme, chiama meme la satira alla sua neolingua. Io ho messo un po' di tempo, ovviamente essendo un troglodita digitale, a capire il funzionamento del meme. Ancora non ne so le origini e non ne so neanche il perché ci sia necessità di questa modalità di linguaggio. Comunque io ho iniziato a intuirlo con un'immagine, una scenetta, un piccolo clip, un movimento in un contesto totalmente diverso che però dà esattamente l'idea della sensazione che si sta provando. Faccio un esempio: John Travolta da solo con il soprabito sul braccio che si guarda intorno in maniera interrogativa e completamente isolato sta a rappresentare: ma come, non c'era un grande evento qui, un appuntamento, e non c'è nessuno, e quindi ironicamente vi è John Travolta che guarda così disperso in solitudine la parte isolata di quest'ambiente che invece doveva ospitare una certa aggregazione. Ecco, adesso io vorrei che con queste parole fosse spiegato il meme da chi ne fa uso a proposito di analfabetismo funzionale. Non mi sto elevando a un grande eloquio, per carità, ci mancherebbe, però mi piacerebbe. Altro motivo di meme è Kermit la ranocchia che si prende un tè Lipton, perché c'è anche la bustina che esce dalla tazza, intanto che bello che rilassato sta prendendo il suo tè, ed è rappresentato per quanto riguarda una situazione inattesa di relax. Non te l'aspetti, un relax a sorpresa che non ti aspetti, e magari per la stragrande maggioranza delle persone invece è motivo di grande impegno, e intanto che succede questo, e poi l'immagine di Kermit che prende un tè Hotel Hilton. Ecco, tutto ciò è, secondo me, un linguaggio molto primario, se non che primitivo, che per lo più delle volte è negativo per quanto riguarda l'aspetto della comunicazione. Però si sa il mio approccio con tutto ciò che è la digitalizzazione, quindi non ne faccio certo meraviglia. Diversi sono i meme, qui alcuni ne sono rappresentati tra pagina 14 e pagina 15 della lettura alla domenica allegata al Corriere della Sera. Se ne volete sapere di più, ovviamente vi è un approfondimento su questa neolingua. Il termine, vi posso dire, che è nato nel 1976 e definiva un tratto culturale che si propaga come un gene. Oggi la nuova forma di umorismo sui social investe politica, sport, costume, religione, irradiandosi e ramificandosi senza limiti o quasi, a partire da un'immagine, un fenomeno collettivo e una risorsa per la didattica. Ecco, continuamente e completamente, scusate, di parere opposto la lettura in questo caso per quanto riguarda le mie affermazioni di poc'anzi. Allora io metto su un po' di musica, vi faccio ascoltare questo raggio di luna e una danza sotto la luna, Moon Dance con i Tokyo Coolest Combo, e tra poco rientriamo e parleremo di scuola e a qualche altro indizio volete, prossimo indizio ho detto e poi non lo do, ah è comoda. L'hanno ideato nel... no, questo non ve lo posso dire, però due stilisti francesi ufficialmente hanno deciso di chiamare questa modalità di abbigliamento in questo modo, che mi darete voi al 333-180-9494. Due stilisti francesi, anche se esisteva già da prima, molto prima. Restando sulla rete, sapete invece, secondo me è inevitabile, poi è ovvio che io la evito come la puzza, ma è inevitabile sfuggirne, quindi arrivare anche agli aspetti di intrattenimento. Ecco, vado controcorrente, tanto per cambiare. Sapete invece qual è un personaggio della rete che indubbiamente è infantile, è primario, è qualcosa di estremamente elementare, ma che secondo me è strutturato in maniera assolutamente intelligente, anche perché questo è un linguaggio moderno per quanto riguarda la comunicazione per i più giovani? Non nascondo, siccome è ben fatto, onore al merito all'autore, è qualcosa che può attirare anche i più grandi. A volte sento questa vocina che viene data a Cico, questo simpatico che non è un barboncino, però diciamo che possiamo nell'immediato definirlo un barboncino. Sono avventure in piccole clip di un minuto di questo barboncino, la sua quotidianità e del suo non riesco a chiamarlo padrone, anche perché lui lo definisce papà. Chiamiamolo di questa coppia, il papà, tra virgolette, dà la voce. Chiaramente non parla al barboncino, questo non dovevo neanche starlo a spiegare, però mette a disposizione la voce in queste avventure che secondo me ovviamente surreali, ma che sono strutturate in maniera molto intelligente e con un dialogo particolarmente adatto, ecco, in questo caso sì, al format di linguaggio musicale, per cui se vi capita per un minuto e dire ma pensa a te Cico, alcuni personaggi di Cico, il mio preferito è Franco. Franco non è nulla ed è tutto, è null'altro che la rappresentazione dell'amico immaginario. Franco può essere tutto ma non esiste, quindi Franco è niente, però lui cita spesso come metro di paragone questo suo fantomatico amico Franco. Essendo un cagnolino sbaglia anche le definizioni, un po' dislessico, è convinto, è saputello, però non so, le cimici le chiama le cicimi. Scuola, allora, torniamo seri, anche se confesso che tra tutte le nefandezze che vedo in rete forse Cico è la più seria, però torniamo sull'argomento scuola, alias praticamente, anche se in maniera più forbita e ci mancherebbe, da quello che io ho portato la settimana scorsa per quanto riguarda l'inizio della didattica, così frazionandola tra genitori, docenti, allieve e allievi. La riapertura delle scuole ci farà assistere a una progressiva e silenziosa militarizzazione delle truppe fra i banchi, pronte a entrare nell'alternanza scuola-industria-caserma, nel frattempo disciplinata forza-lavoro, mentre premono le problematiche contro la violenza di genere. Sapete come la penso sull'aspetto dell'alternanza scuola e lavoro? No, o si studia o si lavora, come si deve, regolamentato in giusta maniera, come spesso dico anche durante la lettura delle prime pagine. Alternanza scuola-caserma viene definito a pagina 2, poi scuola-caserma, anche questo poi si scade dall'altra parte, hai capito? Perché le ragazze e i ragazzi non hanno un approccio di dicotomia tra quello che è la scuola e il lavoro. Ah no, ma io studio ancora, ah ma no, ma io poi sono qui e faccio lo stage, ah ma no, ma poi diciamo che ho giusto il rimborso per andare sul posto di lavoro. Quindi non hanno esattamente la dicotomia netta che c'è tra la scuola e il lavoro, secondo me, come deve essere. Ovviamente la scuola ha un aspetto, il lavoro ne ha un altro, rendere più morbido il passaggio, a parte che secondo me morbido tra virgolette, anche perché vanno a star peggio, quindi non è certamente né motivo di produttività, parola che odio, e non è neanche motivo di crescita per i ragazzi. Questa non è proprio una scuola per giovani, il mercato, messa da parte la crescita culturale, si privilegiano gli sbocchi lavorativi, un'educazione transfemminista, nuove pedagogie per una scuola al servizio di relazioni sane, per la cultura del rispetto. Quattro pagine dedicate appunto a questo inizio di anno scolastico 2023 e 2024, tutto ciò da alias. Un altro indizio, poi torniamo a scuola, perché finalmente parliamo, tanto per cambiare anche in questo caso, della Divina Commedia. A tra poco. Thank you. Lisa, buongiorno. Anche tu ogni tanto ti distrai con Cico, visto? E beh, è ovvio, la cibicletta è la bicicletta. C'è anche il crocodillo, che per me è impronunciabile, però spesso è accompagnato da questo gonfiabile che è il pericoloso lucertolone, in questo caso quanto mai mansueto, che lui chiama il crocodillo. Innamorato perdutamente di una cagnolina che non riesce mai a vedere o passare del tempo con lei, se non che proprio così in situazioni veramente tacchi istantanee. Poi c'è il suo amico nemico che è Cato, che è un gatto. Indizio? Volete un altro indizio? 1946, gli due stilisti francesi portano questo modo di abbigliarsi per l'estate, già però ideato dagli antichi romani, che non lo adoperavano per l'estate, no, tutte le stagioni, tutti i tempi, per loro non era quello, lo adoperavano per fare sport, per fare sì le gare, per fare il corpo libero, per fare la danza, per essere più comodi nell'esercizio fisico. Ok? È una parola sola, eh? Velocemente Dante, sia per lanciare la pubblicità, anche se l'argomentazione dalla prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore, che è un magazine di una bellezza, usura, arte e finzione, una traccia per capire miti, cambiamenti, emblemi e spie. Torna in una nuova edizione un classico della storiografia contemporanea e l'autore sceglie per noi un passo che, legando arte, natura, Dante e Giotto, riporta alla fiction di oggi. Ma quello della fiction di oggi poi mi ha affascinato fino a un certo punto. Grazie a Carlo Ginzburg per questo lavoro, Miti, emblemi e spie, edito da Adelphi. Bisognerebbe avere tanti soldi, perché questi saggi io li acquisterei tutti. Comunque grazie per l'anticipazione tratta dal lavoro di Carlo Ginzburg, qui sulla Domenica del Sole 24 Ore. Allora, abbiamo parlato di usura. L'usura era veramente considerata uno dei peccati più tremendi in assoluto. Perché? Perché contro natura. Il denaro, figlio del denaro, è incestuoso. È far l'amore contro natura, quindi non è più amore. Tanto più che venivano paragonati gli usurai ai sodomiti, cioè provavano piacere fino a se stessa in maniera così definita contro natura, e venivano portati in una bolgia a camminare con un sacco legato al collo che si strozzava sempre di più. Non a caso venivano definiti poi gli strozzini, no? Destinati a camminare con questo sacco per accumulare, però vuoto, ma con il laccio che stringeva sempre di più. E c'è una particolarità. A Padova un ricchissimo usuraio, che poi finirà punito chiaramente da Dante, della famiglia degli Scrovegni, che noi conosciamo bene, in questo caso ecco qui il parallelismo con Giotto. Beh, la cappella degli Scrovegni viene edificata proprio perché il figlio di questo usuraio vuole chiedere scusa, vuole mondarsi da questo peccato, anche lui stesso comunque usuraio, tra l'altro, quindi come si dice, l'albero, la mela non cade più di tanto lontana dall'albero. Ok, e aggiungo un altro particolare che magari molti di voi non conoscono, che l'origine della parola Scrovegni viene da scrofa, quindi già non è esattamente un complimento, se vogliamo, con tutto il rispetto per il pregevole suino, però non è stato identificato esattamente con grande rispetto. La cappella degli Scrovegni viene addirittura decorata, sapete bene, dal grande Giotto, e fra Dante e Giotto ci sarà una conversazione, tra l'altro di una particolarità assolutamente unica. Thank you. siccome sei un po' supponente, sto scherzando Lino, però Lino ha già risposto esattamente al quiz, eh? Poi ha aggiunto, ma è solo per competere, infatti non do la risposta esatta pubblicamente qua al microfono, dico semplicemente che ha indovinato e lascio rispondere al 333-180-9494 magari un'ascoltatrice o un ascoltatore che per la prima volta vince un saggio ai magazine. Molto bello, eh? È un testo teatrale trasformato a saggio. 1946, due stilisti francesi riprendono questo abbigliamento estivo, il saggio è Manhattan Project, ci saranno gli esperimenti nucleari in un atollo, li faranno gli Stati Uniti d'America, in un atollo sulle isole Marshall. Questo atollo ha un nome e darà un grande scalpore, ma come massacrano un paradiso tropicale? Allo stesso modo questo capo d'abbigliamento estivo creò un grandissimo scalpore. I nomi, appunto, allora il nome sarà abbinato a tutto ciò. Chiaramente a questo punto ho già rivelato, si può dire, la risposta al quiz, che l'aspetto durante la pubblicità al 333-180-9494 per voi e in Audi. Lo rimetto in palio, ne avevo diverse copie, è bellissimo, è un saggio Manhattan Project, Stefano Massini, edizioni e in Audi. Dante si trova con Giotto, tutti e due meravigliati. Uno, grande politico, grandissimo letterato, cambierà per sempre il linguaggio, sarà un tutti i tempi in diversi campi. Beh, Giotto, un artista che cambierà lo studio nell'arte figurativa, il grande pittore, il grande artista. Pensate, questi si incontrano, no? Pensate agli incontri tra artisti odierni e l'incontro tra Dante e Giotto, per dire pochino lo spessorino di differenza che c'è, no? Beh, bando a questa polemica. Dante, sapete che Dante non le mandava, non andava tanto, non andava in punta di forchetta, no? Allora stanno un po' assieme, Giotto lì che lavora vicino a lui, dice, questi sono i miei figli. Dante guarda, un po' così, un po' stranito, poi insomma. Ma mi scusi maestro, dice Dante, ma com'è possibile che un grande pittore, un grande artista come lei abbia dei figli così brutti? Leggero, eh? E Giotto risponde in maniera molto illuminata: perché io dipingo di giorno e scolpisco di notte. Poi vi dirò perché ha risposto in questo modo. Dopo la pubblicità, bellissimo comunque l'articolo che c'è in prima pagina sulla Domenica del Sole 24 ore, chiaramente è l'illusione che per quanto riguarda l'arte non sarà mai al pari della natura, per quanto Giotto ne sia un grandissimo interprete, forse il più grande sotto certi punti di vista, beh, non sarà mai come la natura è veramente. Quindi io creo una grande illusione, per cui chi può dire qual è la verità, qual è l'aspetto reale, qual è l'immagine veramente poi che viene restituita al pubblico, all'osservatore. E da qui insomma se ne dipana un articolo molto molto interessante in prima pagina sulla Domenica del Sole 24 ore. Intanto è già arrivata la risposta, vi posso dire, quindi sì, ok, potete giocare, ci mancherebbe, ma è già arrivata la risposta esatta, però la proclamazione ci sarà dopo la pubblicità, a tra poco. Thank you.

È tuo, tranquilla, te lo sei meritato. Il saggio di Stefano Massini, che ti dico è uno dei saggi più belli che ho letto nella stagione 2022-2023, anche perché dà l'idea di una trasposizione teatrale. È Manhattan Project, adesso poi tra l'altro è fra i protagonisti sul grande schermo, Oppenheimer, di cui Alias ne porta un ampio approfondimento con Raffaele K. Salinari, scusate. Oppenheimer, il fuoricampo, le feroci conseguenze dell'estrazione dell'uranio nelle miniere del Congo. La città degli scienziati fu costruita a Los Angeles, un luogo deserto ma considerato sacro dagli indiani e a loro mai restituito. Disumane condizioni di sfruttamento colpirono i minatori nel Katanga, la più importante fonte di uranio. Questa è la doppia pagina, il long format di approfondimento per Ultra Oltre su Alias del Manifesto. Quindi il saggio è tuo, Elisa, e te lo sei meritato. Ho parlato di Manhattan Project e sapete bene di che progetto si tratta, rifacendomi appunto all'approfondimento sul centro pagina di Alias. E è stato dato il nome dell'atollo sulle isole Marshall, e perché tutto ciò fece grande scalpore, come fece grande scalpore, seppur l'argomentazione certamente di un altro spessore, l'indumento estivo, il costume a bikini. Quando pensate al bikini, è un atollo tropicale, ma la maggior parte di voi immagino siano ben informati, però quando poi sento il trichini, il monochini, queste storpiature, dico oddio, oddio. Happy Tango, questo brano di Richard Galliano ha accompagnato questo rientro, e Elisa dice: anch'io ho già vinto, però in passato. Infatti, e quindi, visto che Lino è un vincitore più recente, sono ben contento di portare alla UBIC in Via Nerio 27 a Bologna il lavoro di Stefano Massini, che tu potrai ritirare. Discone, French Touch del Mantice di Richard Galliano alla fisarmonica. Abbiamo anche Michel Portal al clarinetto, quindi una coppiata veramente unica e speciale. Proviamo anche, a proposito di jazz, questo brano del contraltista Greg Osby, che con Steve Coleman per tutto il movimento newyorkese M-Bass è tra i protagonisti più importanti. Questo giovedì parleremo di American Beauty, un'esposizione a Padova, tra i protagonisti anche Banksy, e mi collego all'articolo, anche se non si parla di grandi esposizioni, però a pagina 13 della lettura è il momento del visual data, questo comprensibile grafico che ci parla delle figure alle quali sono intitolati gli scali d'Europa, e se ne traccia una mappa culturale che però dice giustamente, una denuncia alla quale mi unisco, è ancora troppo maschile, ancora molto maschile. Gli aeroporti europei intitolati a personaggi storici. Noi abbiamo il Marconi, radiocomunicazione, quindi a Bologna, il Marconi, grande viaggiatore, il Marco Polo a Venezia. E poi c'è questo aeroporto dedicato a John Lennon e anche a Banksy, ma dicono come mai le donne no. Questa mappa di tutti gli scali europei e i personaggi famosi in questo grafico esteso come immagine, ma piccolissimo come scrittura. Quindi peccato, perché se Orizzonte Visual Data fosse un pochettino più comprensibile, certamente sarebbe cosa buona e giusta, perché l'argomentazione è una curiosità che secondo me è interessante. Anche perché è vero, dal nome dello scalo si intuisce molto anche dalla città di appartenenza, no? Belfast George Best, per dire. Quasi ai saluti, vi anticipo che giovedì, ok, questo American Beauty, l'esposizione a Padova, San Gaetano a Padova, mentre per il prossimo, lo stesso giovedì, finalmente non di venerdì ma di giovedì, ci sarà la conferenza stampa a Palazzo Roverella a Rovigo per una mostra dedicata alla grande fotografa Tina Modotti. Robinson di Repubblica, quel Tiziano, un giovane che farà strada alle gallerie dell'Accademia di Venezia, i primi passi e i capolavori di un vero maestro, eh sì, e come, del colore. Di Rinascimento veneziano, una mia grande passione, ne parliamo spesso in mostra, sarà una buona occasione anche questa, anticipata, come sapete, a volte il breakfast anticipa i magazine, così ho l'arroganza di pensare, e a volte, giustamente, i magazine anticipano il breakfast. Quello che è certo è che vi do appuntamento a domani, alle ore 7, avremo un protagonista, seppur con una clip di 3-4 minuti, un cestista che non conoscevo, magari aiuterà Paolo Onofri, visto che è un contemporaneo, che è Linton Johnson, che in Sala Borsa ha presentato un suo libro. Beh, ne sapremo di più assieme domani al Mood Groove. Avremo il ritorno della rubrica Altri Suoni e per il momento è tutto. Linea alla pubblicità di rientro all'IDP enciclopedico. Beh, buon lunedì, una buona settimana. Non manco certo di mandarvi un caloroso abbraccio e un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko, i 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana. A domani.